Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. E dopo la sigla natalizia che ci sta accompagnando da qualche giorno, buongiorno, io sono Nicoletta. Abbiamo iniziato anche noi la puntata di oggi con un classico del Natale, White Christmas, interpretato da Michael Bublé. Se Deborah ci sta ascoltando, Deborah, se ci sei, batti un colpo, sarà molto contenta perché lo adora. E in particolare proprio questo brano ha eletto a colonna sonora delle nostre feste natalizie. E allora la domanda sorge spontanea: qual è la vostra musica del Natale? 800... Breaking news. Sarebbe l'attentatore di Berlino, l'uomo ucciso questa notte a San Giuliano Milanese in una sparatoria con la polizia. La polizia l'avrebbe trovato alle 3 di notte, l'uomo avrebbe urlato Allah Akbar, avrebbe sparato ad un poliziotto ferendolo ad una spalla e poi sarebbe stato ucciso nella sparatoria seguente. La notizia è stata data inizialmente da il settimanale Panorama sul suo sito e adesso viene confermata da varie fonti di stampa, comprese le agenzie internazionali. Secondo altre fonti, l'uomo sarebbe stato avvistato in Danimarca, ma le indicazioni stanno convergendo sull'ipotesi che si tratti dell'uomo ucciso questa notte appunto a San Giuliano Milanese, nella cintura appunto di Milano. E allora ringraziamo la redazione, ulteriori aggiornamenti nel corso dei nostri GR. Noi diamo inizio alla puntata di oggi, che vuole essere una specie di portateco, insomma, questo termine con cui si definiscono gli appuntamenti, le cene in particolare, in cui i partecipanti sono proprio invitati a portare qualcosa con sé. Allora, oggi attraverso il nostro numero verde potete portare ricette, ricordi, musiche, profume, idee, giochi. Potete anche accennare la vostra musica del Natale preferita in diretta al nostro numero verde o via WhatsApp. O potete anche così raccontarci il desiderio che portate nel cuore, che cosa vorreste ricevere, che cosa vi piacerebbe regalare. 800 24 00 24. A proposito di regali, quale occasione migliore delle feste per regalare un libro, un bel libro? E noi partiamo proprio da qui con il primo ospite di oggi. Voglio leggervi subito un messaggio che è arrivato su WhatsApp da Marco, che ci scrive: Natale, una festa del cuore che ci fa spendere tanti denari. Utilizzo questo SMS proprio perché ci porta dritto al tema che vogliamo affrontare oggi, perché anche il Natale costa e da molti anni questo impegno, che in realtà viviamo senza fatica perché il Natale lo rivolgiamo, lo condividiamo con le persone che amiamo, implica però anche la necessità di fare due conti con i nostri denari e in famiglia. Breaking news. Un altro aggiornamento, e poi i prossimi naturalmente appena ne avremo, che viene in questo momento dal Ministero dell'Interno, che sembrerebbe dare conferma alle indicazioni che vi abbiamo dato poco fa, ossia il Ministro dell'Interno Minniti è previsto che tenga una conferenza stampa tra circa 7 minuti alle 10:45 sulla vicenda appunto della sparatoria avvenuta questa notte a Sesto San Giovanni e non a San Giuliano Milanese, come abbiamo detto pochi istanti fa, e nella quale la persona che è stata uccisa sarebbe l'attentatore di Berlino. È tutto. Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti, io mi sto avvicinando al tema un po', no, faticosamente, al primo tema di Cuore e Denari. Parliamo di Natale, parliamo di crisi, parliamo di educazione e informazione. Noi sicuramente con i nostri figli in famiglia abbiamo affrontato il tema della crisi, se ne parla tra adulti e naturalmente se ne parla anche con i bambini, però è molto difficile far capire loro che la crisi economica, della quale parliamo da anni, comporta anche delle scelte precise, no? Per far quadrare il bilancio della famiglia. Circostanza che conosce bene il nostro ospite di oggi, che finalmente posso salutare, Leopoldo Gasparro, giornalista economico. Ciao Leopoldo. Ciao, buongiorno. Allora, ti troviamo da pochissimi giorni in libreria con un libro che io voglio segnalare a tutti i genitori, ma non solo. Si intitola Il salvadanaio di Arianna, soldi, risparmio e banche spiegate ai ragazzi, edito da Mondadori. Allora, Leopoldo, intanto auguri. Grazie anche a tutti quelli che ci ascoltano, uno splendido momento questo che stiamo vivendo perché ci avviciniamo al Natale, un po' più complicato dal punto di vista economico visto quello che è successo nelle ultime ore alle banche italiane. Però, questo ci fa capire che c'è bisogno di educazione nel nostro paese. Ed è quello che Deborah tutti i giorni fa da Cuore Denari e molto, siamo molto attenti e riconosciamo come cruciale l'informazione che possiamo dare ai nostri figli, perché vanno educati così come per la salute, così anche per la gestione dei soldi. Tu conosci bene il tema, non solo perché indaghi in qualità di giornalista, ma perché ogni giorno proprio ti cimenti in queste sfide con tua figlia Arianna. Ma guarda, io con Arianna e anche con Chiara, con mia figlia Chiara, dialogo costantemente di questi argomenti, però questo testo, oltre che con loro, nasce da un rapporto con quattro classi di una scuola media in Abruzzo, una scuola media di un paesino che si chiama Castel di Sangro, da cui provengo. L'anno scorso con queste quattro classi ho fatto lezione ogni sabato per 6 mesi, quindi abbiamo condiviso tanto. Io sono entrato in questa scuola con l'idea di cercare il lessico giusto da riportare poi in un testo. Io mi occupo di economia e finanza e quindi scrivo per gli adulti normalmente. Certo. Però l'idea di voler trasferire l'educazione a chi poi arriverà a gestire i risparmi che noi, chi prima di noi ha messo da parte, in Italia lo sappiamo, sono tanti, sono 4.300 miliardi di risparmi degli italiani, quindi è una somma che va gestita correttamente. Allora ho detto, cosa posso fare per i ragazzi? E la prima cosa ho detto, devo riuscire a comprendere come comunicare con loro. Sono entrato in questa scuola il primo giorno del primo mese con un'idea e sono uscito con un'idea completamente diversa, perché poi i ragazzi ti aiutano a crescere, ti aiutano a capire qual è la loro dimensione, e il testo che ne è venuto fuori è veramente una chiacchierata fra me e mia figlia nel caso specifico, ma è come se mia figlia stesse lì ad impersonificare ciascuno di quei ragazzi, di quelle quattro classi che ho incontrato, esatto. Vorrei anche che tu nel tempo a disposizione riuscissi a trasferire anche ai genitori all'ascolto come parlare ai figli di crisi, come spiegare dei concetti anche che sono difficili anche per noi adulti. Ecco, ad esempio, immagino che il spiegare il concetto di crisi nel modo giusto, proprio anche per evitare di lasciare un'impronta troppo negativa nella mente del piccolo lettore, sia stata una bella sfida. Come ne parli, come la spieghi, come hai fatto, che difficoltà hai incontrato? Guarda, io mi sono reso conto, Nicoletta, che i ragazzi, giustamente noi parliamo in casa tra adulti, ascoltiamo i telegiornali, ascoltiamo la televisione, poi pensiamo che siccome le menti dei ragazzi che ci accompagnano nella nostra vita siano meno mature delle nostre, tutto quello che ascoltano non lasci traccia. Invece mi sono reso conto, parlando con questi ragazzi nelle scuole, che ad esempio il concetto di crisi di cui si parla ormai nel nostro paese da anni, dal 2007, dal 2008, è talmente radicato che a un certo punto una ragazzina mi chiese: senta professore, ma perché mio padre dice sempre che non possiamo fare più tutto quello che facevamo prima? Perché c'è la crisi, non può comprarmi un nuovo paio di scarpe della Nike piuttosto che il nuovo cellulare, piuttosto che qualunque altro oggetto. E tu? E allora lì ho cominciato a ragionare come avrei spiegato io questo concetto a mia figlia, e l'ho riportato in questo libro, perché poi partire dalla crisi, partire dal loro noto, ecco. Partire ma se a un genitore proprio oggi un bambino dicesse: ma perché Mi dici di questa crisi e non mi puoi comprare il paio di scarpe in più o un paio di sci nuovo. Dai un'indicazione, facci sbirciare nel tuo libro. Allora, io sostanzialmente ho spiegato che cos'è la crisi partendo da degli esempi normalissimi. Le storie ci aiutano ad entrare molto più nei tecnicismi. Allora, sì, ho spiegato ad un bambino quale può essere la crisi di un atleta che non ce la fa più, no? Ha finito le risorse, ha finito le energie. Ho spiegato qual è la crisi fisica, quale può essere la crisi nei rapporti tra due persone. I ragazzi purtroppo sono costretti tante volte a vedere in famiglia litigi o anche nelle scuole. E allora questo ci fa capire che il concetto di crisi è un concetto che mette in difficoltà qualcosa o qualcuno rispetto a qualcos'altro. Da questi esempi molto pratici poi sono passato a raccontare un pochino come funziona in maniera molto semplice l'economia. Allora, raccontando delle mie esperienze di compravendite di oggetti per regalini per la mia figlia più piccola, Arianna, ho raccontato di come quell'oggetto che è arrivato in quel negozio rappresenta la fine di un ciclo produttivo, dove dietro quell'oggetto c'è qualcuno che quell'oggetto l'ha pensato, lo ha costruito, c'erano delle fabbriche, e qui ho spiegato che l'acquisto di quell'oggetto diventa la fine di tutto un percorso che era cominciato dall'ideazione di quell'oggetto. Bene, quando noi spieghiamo che poi a più livelli quel percorso può interrompersi e può entrare appunto in crisi, il ragazzo comprende meglio quello di cui si sta parlando e comprende meglio anche quali sono le dinamiche. La battuta che faccio fare a mia figlia in questo libro è quella di dire: allora, per interrompere la crisi non ci resta che comprare questo oggetto che io ti ho chiesto, perché in questo modo noi rimettiamo in circolo virtuoso tutto quello che, certo, in questo momento si è bloccato. Allora, noi però ci dobbiamo fermare un attimo, Leopoldo, perché ci sono gli aggiornamenti del traffico sulle strade e sulle autostrade, e ritorniamo di nuovo insieme tra poco. Cuore e denari. Vedi, Michael, sarai azionista di Ferrovie in Africa. Esatto. Dighe in Canada. Le navi, gli dico delle navi. Flotte sopra i mari. Di più, gli dico di più. Canali che uniscono gli oceani fra loro. Che incentivo all'immaginazione. Con 2 grammi miseria. Ecco, l'avrete sicuramente riconosciuto. È un brano tratto da un film che ha tantissimi anni ma che è sempre attualissimo, Mary Poppins, e l'ha riconosciuto sicuramente il nostro ospite di oggi, Leopoldo Gasparro, giornalista economico e divulgatore, con cui stiamo parlando di crisi, di concetti, di educazione finanziaria e come trasferirla ai bambini, partendo dal libro che ha scritto. Direi, Leopoldo, in base ad un'esperienza molto bella costruita proprio con i bambini, il salvadanaio di Arianna, soldi, risparmi e banche spiegate ai ragazzi. Leopoldo, che cosa quale spunto ti suggerisce Mary Poppins, che oltre a essere un grande classico delle feste di Natale può tornare molto utile anche sul piano dell'educazione finanziaria? Guarda, questo film ha all'interno tante iconografie legate al mondo della finanza. Se pensiamo che il protagonista si chiama Mr. Bank, che è uno dei momenti, quindi è un uomo di banca, no? Uno dei momenti più topici di questo film rappresenta proprio la base del sistema di rapporto tra il risparmio e le banche. Quello che è venuto meno in questi giorni, fondamentalmente, la fiducia, che è l'elemento di scambio appunto tra la banca e il mondo dei risparmi e i risparmiatori. Bene, io, come ti dicevo prima, Nicoletta, penso che il modo migliore per raccontare le cose ai ragazzi e per farlo anche noi insieme ai ragazzi, perché questo è un libro che parla ai ragazzi ma che parla anche ai genitori, alle persone più adulte che magari su alcuni argomenti sono meno avvezzi di noi che ci occupiamo di economia tutti i giorni. Dicevo, raccontare le cose attraverso le storie, storie di vita, storie di successo, storie concrete che loro vedono tutti i giorni, vivono tutti i giorni, sia più semplice che fare dei trattati con dei numeri, con degli aspetti che sono petulanti, noiosi, e che mia figlia farebbe fatica. Ti avrebbe subito cassato. A prendere in mano. Ad esempio, un altro aspetto insieme a quello di Mary Poppins, io racconto come sia importante la funzione della banca. Noi viviamo in un momento nel nostro paese soprattutto in cui le banche sono bistrattate, ma noi abbiamo messo da parte, come dicevamo prima, 4.300 miliardi, senza tanti banchieri e banche che hanno lavorato bene insieme ai risparmiatori. Questa somma in Italia non ci sarebbe. E allora diamo credito alle banche che funzionano bene, ma spieghiamola anche ai ragazzi attraverso degli esempi concreti. Fammene uno prima di salutarci. E qui ho parlato di Disney. Mia figlia guarda spesso Disney Channel, come molti dei ragazzi di oggi hanno gadget della Disney. Allora raccontavo di come, senza uno dei più grandi banchieri al mondo, Disney e tutto quello che ne deriva oggi non sarebbe esistito, perché grazie ad un uomo, ad un italiano straordinario che forse pochi conoscono, che si chiama Peter Amadeo Giannini, che era un italiano cresciuto negli Stati Uniti, che con grosse difficoltà ha visto da ragazzino il padre ucciso per un prestito non rimborsato di un dollaro. Bene, questo ragazzino ha costruito poi, proprio per recuperare questo affronto che aveva subito alla vita, ha costruito una delle banche più grosse al mondo, la Bank of America. Oggi è la Bank of America, prima l'aveva chiamata Bank of Italy, e lui ha finanziato Disney che stava fallendo. Senza di lui Disney non ci sarebbe stato, non ci sarebbe stato il ponte di San Francisco, non ci sarebbe stato Charlie Chaplin, non ci sarebbe stata la HP, una delle più grosse aziende nel settore della tecnologia al mondo. Insomma, pensate quanto un banchiere, lui ha inventato, Nicoletta, il credito al consumo, le rate per comprare le cose, per permettere a tutti di avvicinarsi a qualsiasi oggetto comprando la rate. Lo ha costruito e ideato quest'uomo, quest'italiano, questo banchiere straordinario, che è morto quasi in povertà, perché lui non ha mai voluto più di quello che gli serviva come emolumento dal punto di vista della dirigenza bancaria. In questo modo, Leopoldo, hai chiuso con una storia alla cuore denari, in fondo. Assolutamente sì, perché noi dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e dobbiamo imparare tutti quanti assieme dalle storie belle che la vita, che il mondo ci racconta, per aiutare ad educare i ragazzi. Ecco perché dico, questo è un libro, io l'ho scritto pensando a me nel rapporto con questi ragazzi. Certo, però lo vuoi dedicare a tutti i ragazzi, perché raccolgano tutte le informazioni necessarie per a crescere quindi una cultura e diventare più consapevoli e competenti. Assolutamente. Ti abbraccio e ti faccio tanti auguri, Leopoldo. Tanti auguri, anche alle tue bambine. Grazie. Grazie per avermi ospitato nella vostra trasmissione. Un bacio anche a Deborah. Grazie, grazie ancora. Ciao. E noi... Eccola lì, il nostro appuntamento con il nostro ospite Mauro Mocci. Buongiorno, medico ISDE, che è l'Associazione Medici per l'Ambiente. Bentornato. Buongiorno. Bentornato. Buongiorno. Che aria tira nelle tre città che lei ha selezionato per il nostro semaforino natalizio? Comincia a tirare una brutta aria, perché dopo il periodo che abbiamo avuto di un po' di ventilazione, di piogge che hanno contenuto l'accumulo delle polveri sottili, e in questi giorni invece già da ieri stanno prevalendo condizioni di scarsa dispersione, quindi stanno consentendo soprattutto nelle pianure un ristagno di inquinanti. Insomma, ci porta di nuovo sempre cattive notizie, dottor Mocci. Cattive notizie. Ecco. E purtroppo il bel tempo porta cattive notizie, lo al contrario so. Di quello che dovrebbe essere. Quali sono le città che ha segnalato, dottor Mocci? Come al solito facciamo il sud, il centro e il nord. Okay. Il sud siamo andati a Catanzaro. Mm. E lì devo dire che l'ARPA regionale non dà dei dati in tempi molto molto brevi. Quindi sappiamo i dati di ieri, dell'altro ieri, con difficoltà, e diamo un verde arancione perché sta anche lì cambiando un pochettino la situazione. Mm. Però ancora siamo sul verde. Dai. Poi ci spostiamo invece a Perugia e qui abbiamo un arancione rosso. Ecco, qui i dati invece li abbiamo quasi sempre in tempo quasi reale, anche se non validati, ma va bene così. Io ritengo che vanno dati, i dati vanno pubblicati. I dati vanno dati. Però, lo dice, esatto, la parola. Ma no, anche se non sono ancora validati, ma la gente capisce che non sono orientarci. L'ultima città, saliamo al nord. Venezia sta andando verso un rosso, mentre questi giorni anche lei aveva giovato delle piogge, sta andando verso... È la città degli innamorati, ma è rossa come aria, ecco. Poi ci sono altre città ovviamente che stanno messe male, che in questi giorni purtroppo, perché che cosa è successo? Con il freddo la gente ha cominciato ad aumentare le temperature dentro casa, allungare i tempi di temperatura, certo. Prendere l'auto perché pioveva, e poi abbiamo il problema degli acquisti. la gente con la macchina va a fare gli acquisti, quindi ci possiamo aspettare quindi, solo se non avete ancora completato gli acquisti, andate a piedi, usate i mezzi pubblici se vivete nelle città. Lei li ha già finiti, dottor Mocci, gli regali? Quasi, roba, ecco, allora, no. Ecco, pochi, ma camminare. Grazie, dottor Mocci, tanti auguri. Buongiorno a tutti e auguri. E a proposito di città, noi ci trasferiamo per un attimo a Torino e poi ci ritorniamo subito dopo il GR per raccontarvi di uno studio che l'Università del Capoluogo Piemontese, insieme ad altri atenei italiani, ha realizzato con un finanziamento della Commissione Europea, studio che ha l'obiettivo di aggiungere naturalmente conoscenze sugli effetti dello smog, dell'inquinamento, ma in particolar modo riferito ai bambini. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Carrara, che è docente e responsabile dell'unità di ricerca torinese. Buongiorno, dottoressa Carrara. Buongiorno. Allora, dottoressa. Buongiorno, grazie per essere con noi. Abbiamo un minuto per inquadrare la ricerca, lo studio, che poi descriveremo con più approfonditamente dopo il nostro GR. Uno studio che è stato, come è stato strutturato, quante città avete coinvolto e quanti bambini avete coinvolto e visitato, tra virgolette. Sì, allora... Abbiamo fatto uno studio tutto italiano su 5 città italiane, abbiamo coinvolto la città di Torino, di Brescia al nord, la città di Pisa, di Perugia al centro e Lecce al sud. Abbiamo scelto queste città perché hanno caratteristiche di inquinamento atmosferico molto diverse, sia come sorgenti di emissioni sia come livello di inquinanti. E abbiamo voluto poi vedere gli effetti su un numero di bambini piuttosto rilevante, perché abbiamo praticamente raccolto dei campioni biologici di più di 1000 bambini in tutte queste città. A questi bambini abbiamo chiesto di darci l'opportunità di spazzolare con uno spazzolino da denti l'interno della mucosa della bocca, quindi abbiamo raccolto delle cellule della mucosa della bocca e su queste abbiamo fatto la valutazione dei danni al DNA, cioè siamo andati a vedere che cosa è successo al loro DNA. Noi ci fermiamo e riprendiamo con la dottoressa Carrera subito dopo il GR, GR di nuovo insieme. I 100 secondi di Radio 24, ecco, il Sole 24 Ore. Ecco, come vi dicevamo, è appena iniziata proprio da qualche istante la conferenza stampa con il ministro dell'Interno Minniti. Sentiamo. Questa. Ci sono evidentemente dei problemi proprio tecnici in questo momento sulla messa in onda della conferenza stampa. Stiamo vedendo comunque il ministro che sta per iniziare a parlare. Ecco. Questa notte alle 3 del mattino a Sesto San Giovanni, Milano, nel corso di normale attività di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato una persona che si aggirava con fare sospetto. Nel momento in cui è stato fermato, l'uomo, senza esitare, ha immediatamente estratto una pistola e ha sparato. Ha sparato nei confronti dell'agente di polizia che gli aveva chiesto i documenti per l'identificazione. L'agente si chiama Cristian Movio. Immediatamente la pattuglia ha reagito al fuoco. Per fortuna l'agente Cristian Movio è stato attinto in parti non vitali. In questo momento è ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita. Gli operatori della Polizia di Stato hanno reagito, la persona che ha aggredito la nostra pattuglia è stata uccisa, la pattuglia era composta oltre che dall'agente Movio, dall'agente scelto Scatà, Luca, uccisa, la pattuglia era composta oltre che dal... agente Movio, dall'agente scelto Scatà, Luca, che è rimasto illeso. La persona uccisa è risultata essere, dopo tutte le indagini che si fanno in questo caso, senza ombra di dubbio, Anis Amri, il presunto sospettato dell'attacco terroristico a Berlino. Ho avuto modo di parlare personalmente con Christian Movio, gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione, il ragazzo è molto motivato. E dunque questa è la conferenza stampa che sta andando ancora avanti del ministro degli interni Minniti, che subito, praticamente appena avuta la conferma che fosse l'attentatore di Berlino, l'uomo ucciso questa notte a Sesto San Giovanni da due agenti della polizia italiana, ha voluto appunto aggiornare la stampa. Di tutto questo continueremo a parlare, ovviamente se ci saranno anche notizie, aggiornamenti rispetto a questa notizia chiederemo la linea anche a Nicoletta, ma torneremo a parlare anche nel corso dei nostri giornali radio. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. E riprendiamo la nostra trasmissione in questa vigilia della vigilia. Ci sono state tante notizie e i collegamenti naturalmente con il nostro GR continueranno per aggiornarvi in tempo reale, ma riprendiamo anche il collegamento con la nostra ospite Elisabetta Carraro. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Responsabile del progetto MAPEC per l'Università di Torino, che ci stava raccontando di un progetto molto interessante che il capoluogo torinese ha svolto insieme anche ad altre città, che va a monitorare gli effetti che lo smog ha sul, non posso dire salute dei bambini, ma insomma, perché sulla salute, poi sul concetto di salute arriveremo più tardi, ma avete proprio cercato di trovare le prove dei cambiamenti che lo smog può produrre nei bambini. Esattamente, noi abbiamo fatto appunto questa ricerca andando a valutare i danni al DNA sulle cellule della mucosa della bocca dei bambini, e abbiamo poi cercato ovviamente di mettere in relazione questi danni con le concentrazioni, diciamo, di alcuni inquinanti atmosferici, ma anche con altri fattori che in qualche modo possono giocare un ruolo rilevante nel determinare questi danni, tipo ad esempio l'esposizione in ambiente domestico, come ad esempio il fumo passivo, magari i genitori che fumano in casa, certo, piuttosto che con altri problemi che conosciamo molto bene, che interessano gli adulti ma anche i bambini, cioè il problema del sovrappeso, dell'obesità, del mangiare tra virgolette male, quindi in modo non salutare. E quindi poi sostanzialmente il nostro studio aveva l'obiettivo di non andare a valutare come fanno gli studi che hanno fatto fino adesso, dando dei risultati ahimè piuttosto interessanti, cioè quelli che hanno messo in evidenza una relazione con la mortalità, con le patologie e l'inquinamento atmosferico. Il nostro obiettivo era quello di andare a vedere i danni che a livello delle cellule l'inquinamento atmosferico può generare precocemente, prima di indurre una malattia. E per questa ragione abbiamo lavorato sui bambini, che certo, sono ovviamente soggetti più sensibili nei confronti, diciamo, degli effetti sia dell'inquinamento atmosferico ma anche di tutti gli altri inquinanti. Quindi siete andati a individuare quei segni, dottoressa, che potrebbero essere indicatori di una possibilità futura di ammalarsi e quindi di una fragilità, sì, maggiore del bambino, che sappiamo, certo, è un soggetto, certo, più fragile. Questo. Non proprio vi siete questo. Fermati qua, però il progetto comprende anche un pacchetto didattico, dei giochi che sono rivolti ai bambini ma anche ai genitori, e l'obiettivo è ancora una volta far prendere consapevolezza che il problema esiste, ma che ciascuno può fare la sua parte per arginarlo e anche per difendersi, iniziando ad adottare, lo ripetiamo tante volte, uno stile di vita corretto. Dottoressa. Sì, sì. Sicuramente nel sito del progetto, che è disponibile sul web, si ritrovano sia delle schede didattiche che sono, diciamo, dedicate ai genitori e agli insegnanti delle scuole elementari, ma anche delle medie e delle superiori, sul tema ovviamente inquinamento atmosferico, sul tema anche difesa dell'organismo nei confronti dell'inquinamento atmosferico. E poi c'è un cartone animato molto carino per i bambini che insomma insegna le tematiche principali, e poi ci sono dei giochi stile Mario Bros, che invito i bambini a provare e che appunto sottolineano l'importanza dell'inquinamento atmosferico e i rischi che si possono correre, ma anche come ci si può difendere, per esempio mangiando in modo sano. Ecco, e farlo capire ai bambini è difficile. È difficile, però magari questi giochi un pochino ci provano. Allora, vogliamo dare l'indirizzo? Dove MAPEC? Allora, l'indirizzo è www.mapec, sì. M di Milano, A di Ancona, Palermo, Empoli, Como, poi la lineetta in mezzo, sì, e lifevita.eu. Noi naturalmente, perché il progetto è finanziato dai progetti Life della Comunità Europea. Grazie, complimenti, auguri. Noi naturalmente metteremo il link sulle nostre pagine, andate a curiosare e a capire come si può fare, che cosa si può fare per contrastare, tra virgolette, un po' questo l'inquinamento. Ciascuno di noi può fare la propria parte, a cominciare ad insegnare ai propri bambini ad adottare uno stile di vita più corretto e soprattutto noi adulti a non esporre i bambini a degli inquinanti inutili come ad esempio il fumo passivo. Grazie dottoressa Carraro, auguri, complimenti. Grazie a voi, auguri a tutti, arrivederci. Dai, adesso allora è tempo, ci occupiamo di noi, ci aspetta un weekend impegnativo, le prove generali probabilmente le abbiamo già fatte con brindisi e cene con i colleghi, parenti e amici con cui ci siamo scambiati auguri. Vi manca qualcuno? Siete ancora in tempo perché potete farlo anche attraverso il nostro numero verde, magari potete così riacciuffare quell'amico che avete perso di vista, anche questo fa parte un po' della magia del Natale. E la spesa? Tutto a posto, l'avete fatta? O quasi. Allora raccontateci il vostro menù, ad esempio il vostro piatto di Natale, quello che per tradizione i vostri cari si aspettano. In questa seconda parte di trasmissione vogliamo un po' parlare entrare nelle vostre case per annusare l'atmosfera del Natale, scambiarci gli auguri. Ho detto una sorta di portateco, ciascuno di voi porti qualcosa, i canali li conoscete, 800 24 00 24, messaggi su WhatsApp. E poi c'è il grande capitolo dei regali, li abbiamo accennati in apertura, li avete finiti, siete ancora in corsa, fermatevi e raccontateci di come vi state preparando alle feste di Natale di Santo Stefano. E io, se voi avete pensato tutte queste cose, a voi acconciarvi per le feste ci penso io, perché spesso si arriva alla fine dell'anno trafelati, stanchi, di corsa, senza energie, tirati, con una brutta faccia, e già sicuramente la zia Cidina che incontreremo in una di queste pranzo e cene ce lo farà notare. Allora noi giochiamo d'anticipo, abbiamo ancora tempo per rifarci, lo facciamo con due esperti che abbiamo in studio, ho chiamato giustamente i rinforzi. Abbiamo la dottoressa Adele Sparavigna, buongiorno. Buongiorno, dermatologa ma anche direttrice dell'istituto Derming, un istituto di ricerca dermatologica, mentre abbiamo il professor Umberto Borellini che è un cosmetologo, docente in tante università italiane, non le possiamo citare tutte perché poi qualcuno si offende, ma professore appunto cosmetologo, e cioè è l'uomo all'università, il diciamo il contendere dei cosmetici mi è abbastanza, perché tutti chiaro. Vogliono ormai imparare a fare cosmetici, tutti infatti vanno molto questi intrugli casalinghi con zuccheri, farine, vengono fuori proprio dei potacci allergenici che sconsiglio vivamente. Però lei ci aiuterà a capire, a scegliere quello giusto buoni. Da metterci in faccia. Intanto guardiamoci allo specchio, facce stanche, occhi segnati, colorito spento. Basta però guardarci un po' in giro perché malcomune è mezzo gaudio, siamo più o meno tutti così. Tuttavia potrebbe essere carino regalarci un aspetto più fresco e riposato, insomma festeggiare il Natale con un'altra faccia. Anche questa sembra una magia, perché in effetti è un po' una magia, perché ci sono dei trattamenti che funzionano un po' come la bacchetta magica della fata di Cenerentola, non fanno apparire vestiti o carrozze, ma distendono, rimpolpano, levigano, e poi anche se l'effetto svanisce per un po' ci sentiamo più belli. E allora no, perché? Perché non provare? Professor Borellini, l'effetto è garantito ed è immediato, tanto che si parla di flash cosmetology? Cosmetology, è una cosmetici a effetto flash, a effetto istantaneo, per tradurre in italiano, che ci piace di più. danno risultati visibili già dalle prime applicazioni. Quindi ci sono formule che levigano, distendono, opacizzano, uniformano. Non è certo una magia, come accennavo prima, però è il frutto di una ricerca molto sofisticata. Ma a noi sembra una magia vederci, no, la faccia più distesa in pochi minuti. Sì, d'altro canto noi parliamo... Oggi si parla di make-up, però abbiamo sempre parlato di trucchi e quindi il trucco è un po' un inganno. Questa Flash Cosmetology sfrutta delle molecole che sono in grado anche di camuffare un po'. Per qualche ora, ad esempio, per quanto riguarda i sieri, vengono spesso definiti Cinderella Serum, i sieri di Cenerentola, perché si applicano magari alle 8 di sera, prima dell'evento, prima della cena, e resistono... alcune ore, poi a mezzanotte svaniscono, per cui tornate a casa prima. Sì. Sì. No, in realtà svaniscono quando poi ci si lava, quindi non è che di colpo poi track sì, ci diventa la strega nocciola dell'impalcatura, no. E sono molecole altamente tecnologiche, perché comunque ad esempio ci sono delle sostanze che nell'asciugarsi distendono i tratti. Ci sono questi micropigmenti definiti soft focus, a effetto soft focus, che creano una sorta di effetto stucco possiamo dire, uno stucchino microscopico che va a insinuarsi nelle microrughe, quindi dà questo effetto levigato e soprattutto la luce non viene più riflessa con l'effetto dell'ombra data dalla carogna ovvero la ruga, ma questa sorta di inganno ottico dà questo effetto, ma estremamente visibile. Cioè la cosa bella è che anche se trattasi di cosmetici, per cui abbastanza fatui ed eterei, però questi risultati si percepiscono e quindi la persona ha questa anche soddisfazione di dire: intanto questa sera... Intanto la metto lì, 800 24 00 24. Allora, approfittiamo della presenza degli ospiti in studio per chiedere di darci una mano. Allora, andate davanti allo specchio, vi vedete le occhiaie oppure le borse che non sono particolarmente evidenti, il colorito stanco. Chiamateci, così un po' condividiamo e ci tiriamo un pochino su, perché i miei ospiti sono venuti qua, sono bellissimi. Non ve li faccio vedere, forse Marco farà una foto. La dottoressa Sparavigna, truccata, perfetta, il capello. Il professor Borellini è un bell'uomo di suo. Io veramente non voglio farmi... Mi guardano con un'aria un po' per dire: eccola qua. Ecco, allora lavorate su di me che ne avete tanto. Ma aiutatemi anche voi. Dottoressa Sparavigna, parto da lei per scrivere quello che possiamo definire l'ABC della ristrutturazione lampo. Io stasera che cosa faccio? Allora, noi durante le feste, visto che non abbiamo più il tempo di fare dei veri e propri trattamenti anti-age, dobbiamo lavorare sul fattore A, cioè sul fattore assorbimento da parte della pelle. La nostra pelle è come una membrana relativamente impermeabile che trattiene l'acqua e i soluti all'interno dell'organismo e non fa penetrare sostanze potenzialmente nocive all'interno dell'organismo. Ma se noi vogliamo far penetrare dei principi attivi ci aiutino, dobbiamo un po' forzare questa barriera. Sì. Ed è questo il meccanismo d'azione della Flash Cosmetology. Quindi quando noi andiamo ad utilizzare sieri, maschere... Ma come faccio a rendermi conto che questi cosmetici hanno effetto lampo? C'è scritto in etichetta? Solitamente il formulatore evidenzia queste performance, quindi... Che cosa leggo in etichetta? Effetto lifting, effetto immediato, fast. Effetto urto... Proprio perché... E questi sono i cosmetici di cui abbiamo bisogno... In questa fase dell'anno. Come urgenza. Come una ristrutturazione. Infatti, ma non sono trattamenti veri e propri, sono un SOS. Ci possono essere delle controindicazioni, delle persone che magari hanno una pelle particolarmente sensibile o magari, io penso sensibile, ma penso anche a chi fa i conti con dermatiti. Certo. E quindi o alle pelli particolarmente giovani, e quindi brufoli, brufolini o acne più severa, si possono applicare o ci sono delle attenzioni particolari? Beh, bisogna comunque fare dei distinguo, perché quando la pelle è irritata, quando ci sono delle patologie in corso, è meglio non andare a stimolarla con delle sostanze che potrebbero essere dannose. Quindi soprattutto è molto importante l'indicazione che questo trattamento ha. Di solito, se una persona vuole distendere le rughette, vuole riattivare un colorito spento, di solito non è un adolescente con i problemi di acne, quindi bisogna anche se l'acne, come lei più volte ci ha raccontato, non risparmia anche le donne che non sono più giovanissime, però con delle, modalità diverse, per cui brufoli, brufoline, arriveremo anche a questo, perché la nostra pelle, quando deve farci fare bella figura, ci frega. Arriva su, abbiamo una cena importante, tam, il brufolo in mezzo alla fronte. Professor Borellini, ho letto che tra i regali, tra i più gettonati, ci sono i prodotti a base di bava di lumaca. Ma funziona davvero questa bava? E che cosa fa? Che cosa possiamo aspettarci? E soprattutto, come si usa? Perché bisogna anche usarla nel modo giusto. Allora, a prescindere che è un discorso un po' bavoso, sappiamo, questo. Sì, noi sappiamo che il mondo della cosmesi e della cosmetologia è molto soggetta a tendenze, a moda e a mode. La bava di lumaca è un ingrediente che ricco di una particolare sostanza chiamata allantoina, che è un lenitivo per la pelle. Personalmente io seguo più una tendenza che è quella della green cosmetology, ovvero io preferisco alle bave di lumachine, preferisco l'estratto della pianta, la radice, la corteccia, cioè la fitocosmesi mi tranquillizza di più, anche perché gli ingredienti lenitivi a livello botanico abbiamo una possibilità, una scelta vastissima, dalla radice di liquirizia alla calendola, alla zulene della camomilla. Quindi fanno lo stesso effetto della bava di lumaca, che distende. Non mi ha risposto sulla bava di lumaca. Adesso che posso raccontarvi com'è nata questa storia del segreto della lumaca, sì. Mi piace di più definirlo così. Segreto. È nata in una cucina, di un ristorante dove fanno molti piatti a base di lumaca. Sì. E gli chef di questa cucina notavano che avevano le mani belle, morbide, che guarivano subito se si procuravano un taglietto. Ed è nata questa curiosità nei confronti. Tutto poverina sulla pelle delle lumache, perché quelli se li mangiavano. Invece la bava di lumaca che noi troviamo nei prodotti, le lumachine, sono trattate benissimo. O soffrono? Sì, però proprio diciamo, sostenendo la teoria della amica Adele, dato che diciamo questo effetto è dato anche ad esempio dalla polpa dell'aloe, e quindi ci sono delle piante che contengono queste sostanze riparatrici e rigeneratrici. Non lo so, io è qualche anno che laddove c'è un ingrediente di origine animale preferisco quindi l'alternativa vegetale, ma è una scelta da formulatore mia. Certo, ecco, ma poi noi vogliamo imparare, e quindi allora c'è la bava di lumaca, però ci sono anche delle formulazioni green. Esatto. E quindi abbiamo, lei mi ha detto l'aloe. Poi mi ha parlato di qualche cosa con la liquirizia. La liquirizia. No, perché io faccio degli intrugli oggi, stanotte mi ricopro di. Ecco, qui diciamo l'affare si complica un po', poiché. Perché sono un caso disperato teme per la mia salute? No, perché è chiaro, viene simpatico pensare al bastoncino di liquirizia. In realtà noi in laboratorio parliamo di estratti titolati, cioè noi abbiamo degli estratti da mirtillo, da calendola, da liquirizia, dove il principio attivo, nel caso della liquirizia, l'acido gliciretico, viene estratto, standardizzato, quindi quando si mette in faccia è un super concentrato. Ecco. Allora, intanto poi ci spiegate anche come usare questi aiutini, dei trucchetti per sfruttarne al meglio le virtù spianatorie, rimpolpanti, leviganti, rimodellanti, perché ecco vedi? subito, ma come si mettono? Grazie, infatti è arrivata nel momento, intanto che parlavo. Un'ascoltatrice, Mariella, ci scrive: sto usando il siero di bava di lumaca da una settimana e si vede la pelle più liscia e compatta. Diteci che cosa state utilizzando, che cosa vi dà soddisfazione, il prodotto, il siero, la crema, la maschera, che vi ha fatto notare dei cambiamenti, dei miglioramenti. I famosi oli essenziali per il viso fanno davvero ringiovanire? Ci scrive Gabriella da Prato. Chi risponde? Io. Allora, gli oli essenziali della serie Nel bene e nel male, ecco, la penetrazione di cui accennava la dottoressa Sparavigna prima. Gli oli essenziali sono degli ingredienti molto interessanti che si ricavano dalle piante aromatiche, ma sono anche estremamente attivi, sono molto penetranti, per cui sono efficaci ma sempre diluiti con cognizione di causa, cioè devono essere formulazioni dove sono presenti in dosi calibrate. Ma io come faccio a capirlo? Si capisce chiaramente, bisogna sempre, come anche le altre volte che sono venuto qua, per avere un po' di competenza bisogna decodificare le etichette, quindi semplicemente facciamo l'esempio del tea tree, che è un olio essenziale di cui si parla molto, contro il brufolino. Arriviamo anche tra poco, ecco, ai brufoli, herpes, acne giovanile, non prurito. Macchiette. Se il consumatore in etichetta innanzitutto non leggerà T3, perché tutti i nomi vanno descritti con il loro nome botanico secondo la classificazione di Linneo, per cui intanto dovrà decodificare la Melaleuca alternifolia, così come se l'ylang ylang, la cananga odorata, se la lavanda, qua ci va meglio, lavandula angustifolia. Quindi già i nomi degli oli essenziali vanno imparati. E poi vedere che non sia il primo ingrediente, ma che ci siano prima di questi oli essenziali magari olio di mandorle, olio di jojoba. Quindi deve essere in fondo, perché puri possono essere troppo penetranti e allergenici. Allora adesso noi ci fermiamo, voi continuate a scriverci e a chiederci, però la donna con qualche ruga è molto sexy, e questo è un regalo di Natale che ci fa un ascoltatore via WhatsApp. Grazie. E anche a me devo dire che non dispiacciono, alcune rughe mi piacciono, altre no, perché le rughe, come la dottoressa Sparavigna ci ha più volte raccontato, non sono tutte uguali. Ci sono le rughe, quelle del sorriso, che sono molto piacevoli, quelle di espressione. Allora abbiamo anticipato, parleremo di tutta la nostra pelle, ogni tanto ci tira qualche scherzetto, e quindi soprattutto nei momenti meno adatti, brufolini, macchiette, herpes che arriva perché siamo stressati e fa freddo, tutto quello che sul vostro viso, ma anche ci allarghiamo, arriviamo alle mani che sono screpolate, non sembrano avere un aspetto da festa, chiamateci oppure suggeriteci che cosa state provando e che cosa su di voi ha fatto effetto. Noi andiamo a sentire le notizie sui mercati e poi ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Allora, un breve aggiornamento prima di restituire la linea cuore e denari sulla notizia più importante di questa mattina. È quella che riguarda l'uccisione avvenuta nella notte alle 3 in piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni, e siamo nel milanese, di Amri, il presunto attentatore Berlino. Le ultime notizie raccontano che sarebbe, e sono ancora indiscrezioni naturalmente non confermate, sarebbe arrivato dalla Francia, in particolare da Chambéry in Savoia, da dove ha raggiunto Torino, e poi sarebbe arrivato a Milano, infine si sarebbe spostato a Sesto San Giovanni. La sparatoria è avvenuta alle 3 di notte. Durante un normale controllo i poliziotti avrebbero chiesto i documenti all'uomo, che avrebbe urlato Allah Akbar, poi ha sparato ad un poliziotto che è rimasto ferito non gravemente. L'altro agente ha reagito sparando e l'ha ucciso. L'agente che ha sparato e ha ucciso Anis Amri è Luca Scalà, 29 anni, ed era un agente in prova. L'agente di polizia che invece è stato ferito si chiama Cristian Movio, ha 36 anni ed è del commissariato di Sesto San Giovanni. La notte è servita per fare un controllo con le impronte digitali e verificare pare che si trattasse effettivamente di lui, una conferma che è arrivata poco fa anche dal ministro dell'interno Marco Minniti, come vi abbiamo raccontato. È prevista una, tra l'altro, una conferenza stampa del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni alle 11:45. Adesso si aprono gli interrogativi a partire appunto dalla provenienza, da dove stava arrivando, visto che la Francia aveva da poco alzato i controlli al confine con la Germania e quindi evidentemente Abri è riuscito a passare comunque. Dall'altra parte, che cosa fosse venuto a fare a Sesto San Giovanni. Prossimi aggiornamenti nel GR di mezzogiorno. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te. Eccoci tornati insieme. Oggi ci conciamo per le feste e abbiamo in studio due esperti, la dottoressa Sparavigna, dermatologa, il professor Borellini, cosmetologo. Cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni per restituire un po' di benessere alla nostra pelle. Abbiamo tutte le facce un po' tirate, stanche, la fine dell'anno è arrivata, adesso c'è l'organizzazione dei pranzi, delle cene del Natale, lo stress che abbiamo accumulato anche durante l'anno, abbiamo quella che si dice una faccia da stress. In più la nostra pelle, proprio quando dovrebbe farci fare bella figura, eccola, ci fa delle piccole sorpresine, il brufolo che spunta, di là fiacchetta sul labbro, inizia l'herpes, una sorta di macchietta che arrossata, un po' squamosa, pruriginosa. Che cosa fare? Abbiamo parlato dei cosmetici che regalano con un effetto immediato bellezza, ne stiamo parlando, suggerite quelle che state utilizzando per regalarvi magari una bella serata, per sentirvi più belli, belle e belli. 800 24 00 24 se volete un aiuto da parte dei nostri esperti, se invece volete dare un suggerimento, se volete partecipare a questa trasmissione portando qualcosa delle vostre feste del Natale, quindi una vostra ricetta, una musica che vi sta nel cuore, il regalo che vorreste desiderare, vogliamo coinvolgervi in questa puntata che precede il Natale, proprio entrando anche un po' nelle vostre case. Dottoressa Sparavigna, abbiamo detto che la nostra pelle può segnarsi e allora lì ci sono i cosmetici, ma possono manifestarsi dei piccoli problemi che richiedono invece altri interventi. Parlo del classico brufolo o dei brufolini. Dottoressa. Il brufolo va assolutamente trattato con un SOS prontamente disponibile. Possiamo utilizzare delle paste a base di ossido di zinco, ma che contengano anche una sostanza chiamata illite, che è un minerale argilloso che riesce ad avere un'azione adsorbente sul brufolo e quindi ad accelerarne l'evoluzione e la guarigione. Mai schiacciarli, perché se li schiacciamo non facciamo altro che rompere questo sacchettino di germi all'interno della pelle, all'interno del derma, e quindi ne favoriamo la diffusione. Ricevuto soprattutto per i ragazzi, perché è quando si mettono davanti allo specchio poi si devastano. 800 24 00 24, professor Borellini, a microfoni spenti, intanto abbiamo Carlo da Teramo. Carlo, così lo racconto anche a lui, intanto buongiorno. Ci anticipava di quanto la ricerca abbia fatto dei passi avanti per la formulazione di prodotti che sono sempre più green, e questa scelta è stata anche dettata per rispondere a una domanda del mercato, condizionata a sua volta anche dai vegani. Certo, anche che vogliono, quindi, che richiedono dei cosmetici che non abbiano. Esatto, infatti oggi esiste una certificazione vegana anche per i cosmetici. Questi cosmetici non devono contenere all'interno, tra i vari ingredienti, derivati di origine animale, ma non soltanto diretti, come potrebbe essere l'acido ialuronico che si otteneva dalla cresta del gallo o dal cordone ombelicale, anche derivati secondari, come la cera d'api o come la lanolina che si ricava dalla lana. E quindi bisogna tenere in considerazione che se c'è questo tipo di richiesta da parte dei consumatori, è chiaro che certo, noi i formulatori e le ditte cosmetiche vanno, in, vanno in quella direzione, per cui prevedo un po' di crisi appunto per lumachine, pesciolini e quant'altro. Che insomma, saranno sicuramente meglio comunque, no? Andranno a stare meglio. Perché che andranno certo a stare meglio. Carlo, buongiorno da Teramo, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione che ogni giorno ci dà delle giuste indicazioni. Grazie. Carlo, lei sì, che cosa sta usando e perché? Allora, io ho visto usare la mia compagna una crema a base di aloe vera. Mm-hmm. Diciamo, mi sono un pochino incuriosito perché appunto lei da un po' la utilizzava, dico, voglio provare. E soprattutto perché la vede sempre più, ogni giorno più bella. Assolutamente, sono ecco, d'accordo. Assolutamente. E allora mi sono incuriosito e lo sto prendendo un pochino pure per me, per quanto riguarda appunto questa cosa. Andrò a vedere un pochino anche gli ingredienti, così. E ho trovato, diciamo, del beneficio della cosa. E quindi ce la vuole segnalare? Sì, quando si comincia a essere appunto 54 anni. Ecco, intorno ai 54 pure anni va forte il tè bianco. Allora, i miei esperti che dicono, dottoressa, i nostri compagni ci rubano le creme, è una buona idea? Direi di sì. Intanto imparano da noi a curarsi, poi dopo oltre impareranno a coniugare i prodotti per la loro pelle, che senz'altro ha delle caratteristiche diverse da quella femminile. Professor Borellini? Sì. E questo tè verde a chi lo consiglia, oltre a Carlo? Ma il tè verde e questi anzi, estratti, il tè bianco. Tè bianco, tè verde, tè nero e tè rosso contengono delle sostanze, dei bioflavonoidi. Sono degli antiossidanti naturali, per cui aiutano a contrastare quei malefici radicali liberi che sono sicuramente una delle principali cause del crono invecchiamento. Ricordiamoci che la pelle invecchia sia col crono invecchiamento, sia col foto invecchiamento che è causato dalla luce del sole. Per quanto invece riguarda l'aloe, come vi dicevo prima, la polpa dell'aloe è riconosciuta da secoli per avere una virtù rigenerante, per cui immagino che il Signore abbia approfittato, magari anche dopo essersi fatto la barba, o dopo l'aftershave tradizionale che brucia tantissimo, ma comunque piace sempre perché dà quest'idea di... A voi o a noi? A tutte e due. Ah. A voi perché questo profumo vi ricorda il papà. Ricorda sempre. È vero. E quindi c'è un aspetto neurocosmetico. E a noi perché questo effetto forte della sostanza alcolica, questo bruciore dà l'idea proprio dell'uomo che non deve chiedere mai. No, ma soprattutto tutti i microbi vengono uccisi. Allora ecco, dopo qualche sostanza lenitiva è ben apprezzata. Allora ci sono tante domande. Io vorrei leggervele tutte e risposte flash prima di andare a sentire le informazioni sul traffico. Ad esempio, Carmelo ha la barba. Guarda com'è bello con la sua barba, chissà come fa a mantenerla così bella. Se siete barbuti, restate, vi racconteremo il segreto di Carmelo. Ma ad esempio un ascoltatore scrive: le creme effetto lifting istantaneo mi hanno dato brutte esperienze, fanno chiazze chiare e seccano e tirano la pelle. Ha sbagliato crema oppure un effetto collaterale di queste creme, di questi effetti creme effetto lifting, dottoressa? Probabilmente l'ha usata troppo di frequente, perché questi sono prodotti che vengono utilizzati una tantum. Quindi quante volte possiamo utilizzare questa crema effetto Cenerentola? Professor Borellini, se lo uso tutti i giorni... Allora, in realtà io posso immaginare cosa è successo, dato che, come vi dicevo, sono dei micropigmenti, a volte ci si fa prendere, no? Allora uno vede un po' questa ruga e ne mette una badilata. Invece questi sono prodotti che vanno usati proprio a chicco di riso. Secondo me quello che è successo è che ne ha messo un po' troppo, perché in realtà questi pigmenti, se si esagera, lasciano certo un'ombra bianca, ma da questo punto di vista io metterne ritengo... meno e non tutti i giorni sono al bisogno, al bisogno, al bisogno. Sì. Uscirete mica tutte le sere a fare la principessa. Punto. 800 24 00 24, informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme con Bruna da Parma e con le vostre domande. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, vi state scatenando. 800 24 00 24, su WhatsApp 349 238 6666, chiedete e avrete delle indicazioni dai nostri esperti che facciamo lavorare anche alla vigilia della vigilia di Natale. Intanto subito, che crema si può usare per il viso di una persona che lavora circondato da polvere? Questo ci scrive Riccardo. Creme barriera, creme ad effetto barriera, che tendono praticamente a rinforzare quella barriera famosa di cui parlavamo prima. Cosa leggiamo nell'etichetta? Quali sono le creme barriera? A base di quali sostanze? Sono delle sostanze molto, molto dense, quelle diciamo un po' più a buon mercato possiamo leggere paraffinum liquidum, che è l'olio di vaselina, quelle un po' più fini si può leggere derivati siliconici che creano un film sulla pelle, oppure sostanze un po' grasse, ricche, quindi lanolina, cera d'api. Si possono usare tutti i giorni? Assolutamente, assolutamente sì. Sono prodotti estremamente superficiali, per cui allora, creano proprio una guaina. L'aloe mi raggrinzisce di più la pelle, solo con la pelle, la placenta di pecora mi trovo bene. Questo è un messaggio che ci arriva da un ascoltatore, che riprende un po' il nostro tema su prodotti che arrivano dai vegetali e prodotti invece che... Tra l'altro la placenta a livello cosmetico è vietata, per cui... Ecco, questa, vede, già leggendo un messaggio abbiamo raccolto un'informazione, la placenta è vietata, e meno male. Bruna da Parma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccola, si sente preparata, pronta per queste feste? Sì. Ho fatto tutto? Ma io faccio poco, perché mi piace la semplicità. Brava. E mangiare poco soprattutto. Ricetta vincente, Bruna. Sì. Allora, senti, io volevo chiedere questo. Io ho delle cheratosi generalmente nel corpo, soprattutto nella schiena, che faccio togliere comunque con elettrocoagulatori perché danno molto prurito, ma specialmente nel viso. E nel viso anche io cerco di fare togliere, cioè sto continuamente attenta e quando ce ne sono un po' le faccio togliere. E la pelle è diventata, sì, sicuramente si sta meglio senza queste macchie pruriginose. Però volevo sapere se c'erano delle creme che si potessero usare come, non dico prevenzione, perché ora il sole ho una certa età, non lo prendo quasi più, ecco, però per poter cercare, perché la pelle proprio è come squamata e come sotto fosse bruciata dal sole. Allora, la dottoressa Sparavigna, vedo che è pronta per darle l'indicazione, dottoressa Sparavigna. Attenzione, perché quando parliamo di cheratosi abbiamo due categorie principali e mi pare che la signora abbia parlato di entrambe. Le macchie, quelle scure, quelle spesse, quelle desquamanti in superficie che si trovano soprattutto sul corpo, sono delle cheratosi seborroiche e sono dovute ad un difetto di funzionalità della pelle che cerca di farsi la sua corazza in questo modo, e sono anche geneticamente determinate. Quelle va bene asportarle anche con un curettage, siccome sono lesioni molto superficiali si asportano facilmente. Importante farlo spesso in modo tale che non crescano e l'asportazione non diventi troppo dolorosa, grande. Ma quando cominciamo a parlare di cheratosi con una base arrossata che sono presenti nelle zone fotoesposte, attenzione, perché quelle noi le consideriamo già dei carcinomi in situ. Quindi assolutamente la cura è, oltre alla protezione, lo stretto controllo del dermatologo, perché quelle sono già delle lesioni cancerose. Allora, ci dite una crema o un rimedio per tenere il collo liscio? Questo qua ci vuole forse una magia, ma sicuramente un'indicazione potete darla, così ci rendete felici, perché è una domanda che ritorna. Sono arrivate 7 richieste sul collo, e segno che il collo, ecco. Allora, innanzitutto è una zona sottile, quindi creme idratanti, nutrienti, la quotidianità e poi il collo. Ecco, la quotidianità, perché tendenzialmente ci mettiamo e la crema sul viso e il collo trascura. Sembra che sia invece del vicino. Invece, spesso fotoesposta. E poi esistono anche delle strategie extra cosmetologiche, ad esempio la ginnastica. Ci sono delle ginnastiche specifiche per rafforzare e dare più tono al collo, tipo l'esercizio della schedina, Com'è? Quello di ripetere 5 minuti al giorno X, X, X, X, X. E quindi lo sternocleidomastoideo e la muscolatura. X, X. Devi però tirare anche un po' la bocca. Sì, X. Infatti si rinforza sia la zona perilabiale e anche quella del collo. Non esagerare per non avere l'effetto papalardo. sempre a proposito. Collo taurino poi dopo. Però XX è eccellente, così come per la papagorgia, 5 minuti al giorno spingere la lingua sul palato. No, io devo dire la papagorgia. No, l'unica, ma va cosa prevenuta. Che... Vabbè, quindi ormai se tu mi verrà anche la papagorgia. No. Dai, ma non gufiamo. No, vero, dottoressa Sparavigna? No, però se imparate a fare questa atleta. Ginnastica con la lingua sul palato, a sentite, me servirà anche sentite. Per la S. Lo provate anche lei, voi. Adesso mi piacerebbe farle un video per i nostri ascoltatori, però schedina. XXX per il collo e per il doppio mento, la papagorgia. Chiamiamolo doppio mento. Dai, doppio mento che è più maschile che femminile. Sì, papagorgia è stato sbagliato. Lingua sul palato. Lingua spinta sul palato. 4-5 minuti al giorno. Dottoressa Sparavigna, lei che cosa? Al contempo, attenzione allo sforzo fisico eccessivo. Perché lo sforzo fisico eccessivo va a lavorare sulle giunzioni del muscolo platisma, facendole aprire. Bravissima. E quindi lì viene a erniare addirittura la struttura sottostante. Il bello degli esercizi che ho suggerito è che si possono fare sul delicati. Divano. Oh, bellissimo. Allora, cosa mi dite del burro di karité? Lo sto usando soprattutto sul corpo e mi trovo molto bene. E allora andrà bene. Se noi ci troviamo bene è già una certo. prima regola. Il burro di karité è molto ricco. L'importante anche qui è decodificarlo in etichetta, perché non troverete mai scritto burro di karité, ma il suo nome botanico che è semplicemente Butyrus spermum parchi. Me lo ripeta? Butyrus spermum parchi. E qua che ginnastica fa ripetendo questa parola impronunciabile? Le guancette magari? Non lo so. Allora, ultimi minuti di trasmissione per segnalarvi che il consiglio del dottor, anzi un minuto, il consiglio del dottor Speciani, che ci ha accompagnato tutta questa settimana per evitare di farci aumentare di peso ancora prima di sederci a tavola per le feste, lo trovate sul pagina di Cuore Denari, perché oggi abbiamo avuto una puntata un po' inframmezzata e anche vi segnalo di andare a leggere il decalogo che ha preparato la Società Italiana di Diabetologia per le persone con diabete, con anche delle ricette natalizie. Quindi andate, trovate tutto. Intanto ringraziamo i nostri esperti che sono venuti a trovarci, il professor Borellini e la dottoressa Sparavigna. Grazie. Auguri. Buon Natale. Ci sentiamo più belli e se avete ancora dei dubbi scriveteci. Noi ci